Ecco. Ciao ciao. Qui. Tanto via, beh. Ho finito la refrigerata. Che deve fare lei? Con la parmigiana? No, l'ho fatta già la parmigiana. Ci voleva un'altra di quelle viola che sono cervella, proprio quelle tenere, ci sciogliono in bocca. Le ho fatte fritte con un po' di sale sopra e poi me la metto mezzo a panino. Io sono buona lo stesso anche fritto. Però la parmigiana sal mare, oh mamma mia che tu bella giovagliana. Ma fate l'altro giorno la parmigiana, non so se ieri, non me la metto più comunque. Sì, devi cambiare ogni tanto, capito? Ma non c'è altro nessuno qua. Ma io ho acceso, diciamo che ho acceso adesso, dai. Perché ho acceso, mi sono dormito. E poi non lo so se tra saggezza perché mi sono addormentato la vita. Io ci sono adesso, ho fatto il psichiatra per la visto che non c'era nessuno. Andrà bene, veda, sì. Niente, ho superato, ho fatto due punti, 5 euro, ho aggiunto un euro, ma non ho giocato due schedine. Era 107 milioni, mamma mia, te ne faccio vicino una cifra del genere. E tu lasci Gallus. La volta, due volte ho fatto due punti con superstare, questo 104 euro, quattro volte 116 euro, vabbè. Questo di un pugliaucci. Beh, senza ombra di dubbio, ma no, io minimo che volevo fare almeno tre con superstar, perché sono già 2-3 mila euro, capito? Vabbè, siamo tentati a fortuna, che se fai un sì, adesso vuoi dire a me. Allora sì, che mi dà davvero a razzo dei occhi. Ma non parti più. Eh? Non parti più nei Paesi Bassi. Sì, adesso lo faccio, parto. Senza... Ma se dico quella cifra prendo una bella casa in campagna vicino a Sassari, anche pagarla 3, 4, 500 mila euro, mettendo quei milioni d'arra già, se no... Io lo dico, te ormai come ti piace a te, ti metti un terreno e costruisci come ti piace a te. Ma certo, metto un torraliccio per antenna, te qua. E la prima cosa, chissà. vabbè. Ma intanto sognare fa bene, comunque potrebbe realizzarsi anche. La fortuna se la cerchi la devi cercare, se non la cerchi come fai a sperare la fortuna? E come ti dico, dice a Sagetta, fai fare trici, Sagetta, fai trici, ogni anno ad all'incisia. Allora vedi, si incazza la cena, dice, ascolta, va bene, ma se tu non giochi la schiena, come ti posso fare a fare una trici? Fortuna ci vuole nel gioco, nei butti di soldi, perché prima di vincere quante ne giochi? Ma io la verità gioco 3 euro, questa passa. Quindi adesso la prima volta ho giocato due schedine e perso 6 euro perché ho vinto 5 euro, ho aggiunto 1 euro e basta, capito? Quindi. E vabbè, ma ti giochi pure le macchine? No, è adesso, io sono una vita che non gioco macchinette, poi mi giocavo poco, 10-15 massimo 20 euro, boh. Ma non ci gioco più da molto, capito, sono buono 6 anni, pagando già la gita. Io non ho mai giocato, perché io ho detto se comincio magari poi mi miglia, e non ho mai voluto giocare, addirittura una volta una persona mi ha detto, Totò, gioca, questi qui sono i soldi, vai e giocali. Macchinette, ha detto no, te ne dici, non ci gioca, ma lui gioca, lui giocava, e casa la sera ha vinto 800 euro, 800 euro dalla macchinetta e poi ha vinto 30 euro dall'altra, ha giocato in due posti. Io ho vinto 3600 euro, 1500, 900, guarda non dico male perché io ti porto a Valedoria dove andavamo con la mia ex e diceva quella butta il soldo, invece tu come vinci un po' ritiri sempre ti metti in tasca, beh certo. E allora la fortuna di vincere, lì non dicevo mai niente, se non dicevo prestami qualcosa che gioco a macca, e da avere un vizio proprio. E poi sono rientrato un'altra volta a trovare la amica mia e le ho raccontato alcune cose, ma detto sì lì c'è il vizio non tu, perché tu come vicino te le mettevi in tasca, te le tiravi su, invece lì arriva anche a 1000 euro, se le gioca tutte va a zero, poi andava a Pacomata, io più di là ha giocato, ma grazie a Dio oggi sono fortunato, quello posso dire. Fortunato anche di sì, tutto diciamo, poi tutto. Grazie a Dio perché vedi, stamattina ho provato lavoro, adesso domani di nuovo per quel lavoro lì che mi ha chiamato di nuovo, altro mezzo per soggiare a casa sua. E vabbè, mi sta andando bene, la sta girando bene, questo anno sembrava un anno fortunato per me. È meglio così tu, e sarà sempre così. Posso dirti che tra fine anno e quest'anno, diciamo, stai cassando il doppio e il triplo della pensione che sto prendendo. Vabbè, comunque non di giusto. Vabbè, non me la potevo usare. Io si faccia a fare, io sono in privato, ho capito, quindi. Vabbè, ma strano, non c'è nessuno, come mai? A quest'ora, ma caro dovrebbe essere di mattina, quindi sera in casa. Di solito entrano sempre a quest'ora, però non so se stanno facendo cosa. Io stasera dovevo uscire ad andare a mettere il gas alla macchina e dopo non me ne è venuto voglia. Mi sono godrumito e ci vado domani mattina, alle 1.10. Devo andare anche al centro Caga a prendere la carne per Tyson. Sei riposato, vuol dire il tuo corpo ha bisogno di necessità di riposarti, hai fatto bene. Un gas può morire domani. Ma dovresti veramente mettere un po' di gas, guarda, come quel tipo, adesso faccio il pieno. Se hai fatto i pantaloni, allora dopo il fatto che faccio il drone, no, il pieno è fatto. Cazzo, Luciano. No, ma io guarda, sono rinato da quando vado a gas, sono rinato. Mi dura una settimana anche. Va bene così. 23 euro la settimana qui si possono spendere, non è come la benzina, io le voce grandi sono 80 euro pure in un rubiere. È aumentato più il gasolio oggi che la benzina, costa di più il gasolio. Infatti mangio le palle girate. Ma non si pensa che uno si compareggia la macchina elettrica? A bacca, ma non tenati. Ma manco se me la regalano, non sa via, è pericolosa. Cioè costa più il gasolio adesso? Sì Gianni, non so di centesimi ma cosa più il gasolio, c'è una differenza di 20-30 centesimi. Così mi lavo la macchina a gasolio, pare per me, e adesso costa di più della benzina, è una cosa assurda, lo stanno facendo proprio per evitare di comprare macchine a gasolio eccetera, capito? È tutto a un giro, in modo che tu vai e ti compri macchine tipo a gas oppure elettrico eccetera. Ma l'hanno fatto anche da poco di aumentare il gasolio e la benzina di meno, costava di meno. Poi c'è stato un periodo sempre, diciamo fine anno, quasi fine anno, che addirittura era uguale, benzina e gasolio. Ma capito, i ricordi originali tutti quanti stesso prezzo, ma biglietti per la luce. Oh, non si può più vivere, cazzo. La vita è troppo cara adesso. Tutto, ma al supermercato, stamattina sono andato al supermercato, ho giubilato 4 gole, 50 euro, gli ho preso. 49 euro, guarda, cazzo. Sì, ma è così infatti. Ho sentito un break sottofondo, pio pio, avanti break. Lo siete già? Oh, avanti! Quello che si muove il segnale ma lo sento a lui. Avanti il break, chi sì? Buon pezzo, la luce. Che se vuole entrare già a posto. Stavo dicendo, cazzo, tutto quanto costa a gara, io ho minimo vado 2-3 volte alla settimana a fare la spesa, e ogni volta do 50 euro, minimo. Sì, ma è tutto aumentato, tu guarda anche all'RSI, addirittura i pezzi di pollo, a fette, pare se mangi con parenti in carne di vendita, ma non di nati. Io non ci butto più niente, una volta solo mi sono sequestrato le melanzane che avevo comprato, le zucchine in frigo, no? Con pasta. Adesso ne avevo due melanzane, una sardina, una ruggine, una giubbata, no? Me le finisco, me le frigo, me le mangio e sono più tranquillo, perché sono veramente buone. Non si butta più niente già. E se faccio pasta e fagioli per esempio, sì, me ne posso mettere un poco e me la mangio pure una sera. Quindi io quello che rimane è la pasta asciutta, un filo d'olio, sopra d'oliva e poi senza me la scaldo e me la mangio. Non si può computare niente, no, troppo corta la roba. No, assurdo, assurdo, assolutamente. Ma non avevo mangiato il pane? carte, le melanzane, le carte sono buone. Sì, sì, anche carte le ho mangiate, perché no? Però c'ho le uova, se me l'avrei fatta, ci ho pensato, guarda, infatti ho pari grattugiato le bocche alle uova, se io agli sì, no, non è giugana, sono uscita poco fa per giocare le schedine, perché mi sono trovato la scheda che avevo vinta, insomma, da già sì. E ti giuro, non ci ho pensato. Se non ero ricordato, guarda, perché non era in programma come le melanzane. Ma quando sono entrato in casa, già mi complico, c'è il melanzano, adesso me la frigo. Se avrebbe dato le uova, me l'avrei fatta infanate, per cazzo. E c'è sempre tempo, mi c'è. Domani posso pigliare uova e melanzane, quando sto a lavorare. E me le faccio anche infanate. Sì, ma sempre ogni di melanzane comincia a fare a me. Dopo ti chiama le melanzane, so però. No, io l'ho trovato la volta all'avversa, volevo fare la bella cecciata con carne di maiale messo in mezzo più l'avversa e cicci, no, e la cipolla quella lunga, ma l'ho trovato, l'ho fatta, ma quanto era buona già, lui piace l'ho giovagnato. Io la cecciata non l'ho mai mangiata, la provata sì, ma la cecciata mai, non so manco che sapore c'ha. Ma questa è da fuori comunque, è buonissima già, altro che favata, la cecciata, poi il cavolo verza è un spettacolo, guarda, si diventa tutto bello mole mole, poi cicca, guarda, è indescrivibile, è troppo buono, io guarda, fra poco me lo farò di nuovo, questi giorni, questa cecciata è una cosa spettacolare, guarda, farla perché è buonissima. E anche la tenuce Viacchiarini la fanno, c'era scritto su internet di prenotarla che c'era cecciata, però fate le prenotazioni che domani abbiamo la cecciata. Ma come propagazione questa qua? Sì, è propagazione. A me piace quella che faccio io, perché la faccio io, so come la faccio. A me se da mangiare una crocco pure non ne mangio, no. Perché non so chi l'ha fatta, come è stata fatta, eccetera, capito? Io ho visto questi cosi che fanno al ristorante, che cucina, fa carne d'erba, no, no. Io mi penso la cosa, ma la faccio io, come le mezze alla parmigiana. Io ho visto tempo fa, stato nel retro della cucina, che c'era un amico mio, e la roba che il cameriere portava di nuovo indietro, quella che avanzava, questo tutto a riciclare, tatamoli, lampasti, quella che non è musicata, eccetera, capito? Non metteva gli altri. Condenate. Ah, questi sono bucari. Sono bucaccione, non si fanno queste cose. Io ristorante so che la roba che la faccio la danno ai maiali, la danno per i maiali, passa un signore e si ritira la roba. E purtroppo ci sono quelli che fanno anche queste cose. Io ho visto una cosa al ristorante, grazie qua, è una cosa allucinante. Questo qui, questo cameriere c'aveva tre piatti, uno c'aveva la fettina, cazzo, come ha girato le cazzo. Si è chinato, cazzo, racconto la fettina, la buccia di un piatto e la servita. Che schifo, no, no, no, no, vedi, assolutamente, io posso mangiare una pizza, beh, perché la vedo c'è il fornello davanti a me, tatatà, zoom, la riga qui, ma non è che ci vado sempre in pizzeria che non me la fotti nulla, a volte posso andare a prendere pizza e portarla a casa e me la mangio in casa, oppure me la posso fare io la pizza come voglio io, capito, la vedono già, quindi già per fare la pizza pronta, ti metti su la mozzarella, quella grattugiata, la vedono, e ti metti gli ingredienti che vuoi, carciofini, salsiccia, dici che vuoi, e ti si muovono lo stesso già. Adesso ti spacco l'antenna a te. Ti spacco l'antenna. Non attaccato, sì. No, adesso sono la Budi, lasciami salire. Ciao a tutti. Ciao, Bru, ciao. Dove la portavo? No, no, no, è andata dolce giù, vero, facendo la commissione, ormai sono diventato, io sono con la zona ormai. Ciao Bruno, ah, ci abbiamo ascolti bene in queste zone, eh? Ah, siete con le bombe, siete con le bombe, sono io, ma è misero, mi è fatto. Cassino. Anche tu stai andando forte, dai, senza la Cassino, sei in macchina, dai. Ma ho visto che l'antenna non ce l'hai più, come mai? L'antenna l'ho smontata, la sto pure perché devo cambiare il tubo, mettere un tubo che vada appena appena fuori, poi bisognerebbe per la macchina, però ho paura che lo vado io, adesso non la vedo, sono un'oretta, non la fai più acceso, con il mio riferito, e la batteria un giorno ha fatto un paio di giri lunghi, ho detto non stai mai rimasto più alla camminata, per strappare la macchina, e lo faccio fare a casa, ma lo faccio passare l'antenna. Poi attacco quello da 1500 blu e ti disintegro. Vabbè segnale, non mi fare arrabbiare. Ehi, quando sei sotto casa ma che si segnali, se no. Oh. Io poverino invece con 5 watt pulite pulite, meschino me. Vedi già, se io con la schiena adesso faccio qualcosa, allora sì che le metto 10.000 watt sotto. Io non ho nemmeno lineare, fatti un conto. Bruno ce l'ha, io non ce l'ho, lo stavo cercando quel 747 per rimetterlo, invece adesso quello della GBC è morto, se no sarei andato e me l'avrei comprato. Ce l'hai, ce l'hai. Ma cosa, vieni a casa, ti faccio vedere la mia attrezzatura, tutta la mia apparecchiatura è liscia liscia, non c'è un watt, niente, non c'è un watt in più. Ma tu la barracchina sei già con 10-12 watt già, il mio è scorsicco. Gianni, ce l'hai, te l'ho trovato io. Trovatola? Eia, c'era un altro ragazzo di Alghero, già te lo prendo io, una cazzata nel volo. E va bene, quando ce l'ha me lo dici. Eia, ciao Tony, ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio, ben entrato. Sto accendendo la stufa, già sono qua che vi sto ascoltando, poi riprendo. Ciao, ben sentito. Tonino, e tu come mi senti? A bomba, sai che devi pucciarti. Pucciarti, sto ancora salendo, sono ancora nei piani bassi. E voi mi guardate molto forte, io sono qua. Stai andando a guardare le coppiette, Bruno. Come dire che stai salendo su alle querce? Ehi, non solo per fare un po' il guardone, non per altro, no. E tu vuoi uscire forte, te ne vuoi dare zonata per quello, dire mi, più forte sono io. Chi ci si muove in un bar, un arco alto, sul terrazzo, piano, c'è i piani di palazzo, metto l'antenna, sono più forte, invece lui che rompiare, ma che se ne va in alto, le querce, no. E rompi il nomino Sassari. Ecco, non vorrei rispondere, io non sono... Diciamo che comunque sono sempre in zona alta, là. Già lo so che vai con le zone, tu. Sono a B, Gianni, già lo sai. Io andavo sempre lì al parcheggio delle equici, da lì mi ricordo che avevo fatto un DX con Londra e mi ha mandato anche la QSL a casa. Ma lì non vado più io, me. Una notte già, una sera si è avvicinato un tipo con un cane, abbagliando dentro la macchina, gli sono continuato a peggio, poi sono le guide di vicino, ho trovato un fiato, non ero dentro casa di nessuno. Allora subito dovevo uscire a controllare. Perché magari ti hanno visto fermo, sai, è sospetto. E lo so, anche andavo a prendere un'amica che lavorava lì, in quella zona lì, e quando aspettavo con la macchina uscivano sempre a controllare. Ma io sono sulla strada principale, vabbè, c'è un olivetto, me ne vado lì dentro, c'è uno spiazzo, ma non sto dando fastidio a nessuno. Diciamo che sono un pochettino alto, perché dove abito io purtroppo non prendo, non c'è niente da fare, sono molto in basso. No, ma nel parcheggio delle cuce a me non mi ha mai detto niente nessuno, la verità. Io andavo lì e vi facevo DX, tranquillo, c'avevo l'antenna, allora non so se te la ricordi, la Sigma DX, quella bianca e vetrorisina, ma già era tipo un papo. La Sigma io ne avevo una nera, quella corta e una lunga, purtroppo. Adesso mi è rimasta solo un'antenna, a colibri, a colibri che tutti vorrebbero, ma non ce ne sono in giro. Me la ricordo la colibri, ce l'avevo nel 126. Ce l'ho rubato 40 anni, 50 anni l'antenna, buco. Figurati che era finita in soffitta, io avevo buttato via tutta l'antenna, la direttiva, io avevo la direttiva mondializzazionale, no? e avevo buttato tutte le ampie, tutte le antenne quando ho smontato dalla casa laggiù, ma c'era la roba di 25 anni, 30 anni. E questa antenna era rimasta in un angolino lì, questa soffitta qui, l'ho portata qualche anno fa. Ho provato, ho detto, ho provato, beh, lo sai che strada quanto stava questa? Lo so, quella antenna lì era buona, la colibri era quella giallocca. E c'era una specie di affare all'interno, si smonta già. Vabbè, era quella l'antenna di quegli anni, aveva quelle antenne, andavano ancora, non c'erano proprio antenne caricate, tipo questa era un antennino piccolino, ma si fa sentire dappertutto, c'è sempre in macchina, non è che è un segnale molto forte, qui c'è questo microfono che fa schifo, si vorrebbe un bel preampli, comunque vabbè. Quella che c'ho io in macchina, c'è, quella lì poppa forte, quella che c'ho io, è alta 1,60 m, ma è fina, è leggera, c'ha la carica che si vede in trasparenza, ovunque vado mi sento. C'era un'antenna, se non ricordo c'era la Mario stavo ciando, non è che 25, figurati di qua stiamo parlando, era tipo quelle antenne militari, quelle antenne che sono d'acciaio che preso, un acciaio elastico, quelle che si addirittura quando stavi viaggiando a velocità dovevi slegare, però si caricava totalmente, quelle sono erano micidiali, ma non li ho più visto in giro. Quella ora ce l'ha fatta, mi pare. Quelle 2,75 con il mollone grosso. Erano micidiali, erano con l'antenne militare, quelle che stanno lì. Ok, avanti Tori. Io mi sono portato le mezze a mezzo come niente. Ok, fatta mi scontata. Ah no. Che ti bruci la bocca, che sapeva fare. Adesso ho raffreddato, non ti preoccupare, se non aprivo niente. vabbè. Anche la barella ti fai. Io faccio tutto già. Guardate. Quando stavo dicendo, Bruno, quella lì ce l'aveva, mi sa, ce l'aveva Agostino in quel 127 blu che aveva, che lo prendeva tutti per poliziotto. Avevano portato un Peugeot, quel Peugeot grande, no? E non li avevano un tempo, non pagava una testa meglio. E vabbè, Peugeot già l'ho conosciuto lo stesso. Ma io mi ricordo la cavalcata, l'avevo visto con un 127 blu e quell'antenna lì, dietro, a 2,75, che praticamente risultava non dritta, però era mantenuta girata e mantenuta da una specie di gancio davanti. Perché è platea da una volta. Vabbè, chi altro c'era? Chi altro c'era? C'era e c'è ancora Tonino che sta mangiando la mezza nel forno. C'è anche Claudio Guerrix, ha detto che ciao, mettiamo qualche cosa, e stava subito. Non è giusto, però io sono a dieta, non parliamo di mangiare, dai, non è giusto. Bruno, quello che sono mezzane, quindi non lo so mangiare con le pasta, e dopo che fai ingrassare. Io invece mi sono fatto a pranzo con le antulla grandi, aglio, prezzemolo, peperoncino, ma era di una montata di ritiri. Buono. Bravi, sì. No, ma le zane non le posso mangiare, che è un problema di verticoli, dunque le posso mangiare tutte quelle cose due sedi. Vabbè, pazienza, vabbè. A questo periodo abbiamo già girato, abbiamo mangiato panettone, abbiamo fatto le abbuffate. Adesso bisogna essere un po' rigidi per perdere un po' di chili. Se no, non vabbè. Mangiare come semi, bro. È un problema di verticoli, soprattutto sono stato operato 3 mesi fa, mi hanno accorciato l'intestino, 30-40 cm, dunque per evitare infiammazioni, cose così, non bisogna mangiare niente che abbia senso, infatti quando mangio i pomodori, sono i semi, c'è quella cosa, non posso mangiare più, il film, niente, tutta la strada, ma niente. Anche un mio ex collega, dico ex perché ormai sono in pensione, il mio collega aveva questo problema qua, lo sai, proprio i semi qualche volta non ci viene a lavorare perché si sento male per il fatto di semi del pomodoro, ci fanno sempre da giorno che va, purtroppo, vabbè, pazienza, dai, già mangio io a posto tu, non preoccuparti, dai. Vabbè, mangeremo altro. Adesso controllo, Tony, quella ragosta che ho messo a bollire, cioè c'hai il seme, se non c'è il seme me la mangio stasera. Tu mangi a porcetta rossa a tutti i giorni. Madonna, che pure fa ingrassare. Ma tu per porcetta magari fa mangiare tutti, no? No? E vabbè. Uia. E io invece non posso mangiare roba dolce. Vabbè, ma la roba dolce non mangio poco anch'io, quasi niente. Ma io ero un grande mangiatore di frutta, mangiavo più i zitti, e dopo stavo di pancia, non capivo perché, no, questa cosa qua non fa pure una quindicina d'anni fa, ma fino ad allora io ho sempre mangiato di tutto, infatti poi facendo le culture più accurate, sentito che probabilmente si chiamavano i verticoli, loro se lo sono portato dei semini, ma poco ci credo, quella natura fa quello che vuole. Ognuno va la sua, purtroppo quando si diventa grandi ci sono tutti gli acciacchi e c'è poco da fare, è interessante saperci come vivere, evitare le cose che fanno male e via. Vabbè, ma io facendo un po' di attenzione mangio un po' di tutto, figurati che adesso ho scoperto che ci sono anche le melanzane senza semi, che ne hanno pochissimi, per cui una volta che le apri, fai a petterle, no? I pomodori, i foglie semi, e così via, tutte quante quelle cosette là, poi chiaramente non puoi mangiare molte verdure, però ogni tanto me ne frego, e mangio quello che devo mangiare, alla fine non arriva mal di pancia, c'è una pastiglia pronta, e non andiamo a questo periodo non è stato operato, ma poi piano piano già sto cominciando. E mangia insalate verdi oppure insalate bollite, verdure bollite, tipo le bietole, eccetera. E vabbè, purtroppo ognuno ha le sue di bagaglie. E per i dolori come stai andando? I dolori ormai per me è una cosa cronica. Dolori, io la mia vita è così, sono talmente abituato, poi guarda quando sono fatto il posto che mi sono trovato, ma faccio iniezioni, faccio di tutto, io faccio solo le vertebrali, una volta che ci sono le vertebrali, le feste, le stanno toccando, devi fare attenzione, se vivi, se fai attenzione, io faccio attenzione, faccio una vita normale, questo periodo che ho saltato un po' la schiena, da male, sto mettendo un busto, ho fatto un busto nuovo, l'autopedico, quelli a legare, sto bene, sto camminando, stamattina sono andata a Platamona, me la camminata, le mattine me la vado là. Voglio dire, devi solo fare attenzione, poi chiaramente i dolori miei, il problema osteoporosi non è se è un dolore che un domani passa, se li ho tutta la vita, sono talmente abituato, vabbè, me ne tengo. C'è il giorno che fai bene, c'è il giorno che fai male. Cosa prendi in calcettonina? Io purtroppo faccio una cura un po' particolare. Io sono una di quelle persone che 15 anni fa ha cominciato a prendere farmaci che erano roba sperimentale, farmaci americani, roba che non si sapeva che fine si sarebbe fatto prendendo questi farmaci, purtroppo. Invece ho visto che piano piano c'è stato un miglioramento nel sistema osseo. E vabbè, quando ci arriva il dolore acuto lo faccio volta, me ne faccio anche piaccio, quello vabbè, però durante tutto l'anno e tutti i giorni dell'anno c'è stato un farmaco, secondo me, formario di oncologi, tutta la vita dell'anno, sempre calcio, prendo la vitamina D, poi io faccio una schiava, fiala che costa 570 euro, una fiala che fa e questo prodotto è stato da qua, mi sta facendo sembra che mi abbia addirittura guardando la mineralometria ossia la MOC c'è stato miglioramento negli ultimi anni di 7-8-10 anni soltanto però in alcune parti al centro del centro della colonna era una stessa di a che mamma ce l'aveva lo seppurusi e lo se si sbatteva poco poco a qualche parte si fratturava subito le ossa avere centinaia di fratture addosso stato, mi è sembrato vaccino così capito, mentre per la donna arriva a casa età per un problema di dopo la menopausa la donna ha una carenza ormonale, per la donna diciamo è quasi normale a una certa età che succeda questo. Io avevo ritenuto che fosse secondario, è dovuta a una carenza per un casino. No? Per cui io da ragazzino ho cominciato a fratturarmi, io penso di avere centinaia di radiografie a casa, ne parliamo poi di tacche, almeno 10 o 15, due giorni siamo niente, che l'ho preso 10 o 15, ma si fanno soltanto quando hanno un corpo che per una frattura sono molto grave, se no di solito quando arrivano i dolori se li tengo, se no che passa, metto a riposo, faccio qualche volta, così, solo in casi particolari faccio solo da così, perché ormai sono già tutto la cassa di maledizione. Lo osteoporosi non è altro che va in casa di calcio nelle ossa, non c'è calcio nelle ossa, per quello si diventano tipo il vetro, si vetrificano. Avanti, Turi. Io sto già cenando, se può dire. E non so, sono, diciamo, cose brutte, purtroppo. Io ho dato il comune per pensione tutti gli acciacchi, è un casino A chi dà quello fisico di domanda di conto invece io faccio bene, io mi sono fatto un picciolino pomeriggio quando mi sono alzato alle 4:30 mi avete scordato con la crema nocciola così buona già, ui mamma mia cante ci stai abbuttando. Io mi devo togliere tutti i vizi. Tu li ti vizi, cazzo. Già lo sai che non puoi mangiare sa. No, ma quel poco posso mangiare te lo mangio. Vabbè, meglio vizio che sei tu malato, di Giaghi. Ma, Bruno, sei già arrivato al suo, zona franca? Sì, adesso. Con un pitbull ha stato la lampadinetta puntata, guardate, con una macchina, altro che una canta. Oppure magari gente di passaggio, magari per tutta la zona. Gente curiosa, cosa vuoi fare? Ma comunque c'era Migliaducci, non so già insieme, se potete separate baracchino qui. Anda bene, metà. Beh, il segnale lì prende tutti belli, anche le radio, dai. Il cane è un po' deboluccio, va da giù, non è da lineare. Infatti, se vuoi posso migliorare. Mica poi ci crede a me. E voi miglioro, Vibro. Vabbè. Allora finalmente appuntarmi sopra la farina, una sala macchina. Allora, con quella lancia non cazzo dietro. E allora lasciamo perdere, allora. Tu basta che dici, ma le serve qualche cosa, non basta dire così. Ah, come se deve fare, se ne mangiare male. Vabbè, ma non è che uno guarda che si viene in piazza che fa un pittimo. Via. Se sono gli spreco per un cino adesso, per il cane. Se spruzzi quello lì, al pitbull e non reagisce più. Prima di arrivare a questo, prima faccio il male a lui e poi al caso, il caso di voglio diventare persone io. Anche in macchina con lui. Come sai, se no, sarà tutto. E poi se andiamo a Covid, tanto fa cambiare, secondo me non faccio mancare niente io. Occhio. Avanti, avanti, Torino. Dai già che tra poco ci facciamo anche la cecciata, dai. Fate la cecciata, ma scusa, da solo te la mangi questa cecciata? Quanto ti mangi questa cecciata? Ma due piatti a mezzogiorno, due piatti alla sera cena. Anche mamma che abbiamo fatto la mamma, usava di quei casa di quei pentoloni grandi, la faceva un bel pure il giorno. Leggera, tipo minestrina, però quando faccio una quella, se non te lavora, ci metto anche i zampone di maiale. Sì, me ci metto un po' tutto, capito? Qui ci metto la faccetta, roba di maiale, capocollo, di tutto c'è poco. Poi metto le cipolle lunghe, fine, che dà sapore più buono, la verza. Guarda, come la faccio io, poi ci metto un bel po' di un filo di olio d'oliva, quello buono. Guarda, ti fai anche la scarpetta. Quanto ne metti di olio? Poco ci va, quasi un cucchiaio, sì, c'ho un pentolone grande, non ne posso cicci, io lo posso fare uno o due lì. Un cucchiaio di olio d'oliva va anche troppo bene. Io non ho capito un litro, cazzo di tuo cazzo, un litro di olio. No, io mi dico, ma me la fai, se stai usando in un gombo non riesci più, no. vabbè. Adesso è il periodo, Vittorio. Il periodo di carnasciaie, ci fanno queste cose. Ho tutto capito già. Che è il periodo di carnevale che ci fanno queste cose adesso. Ho già, io ho imparato una cosa. Quando io voglio una cosa, prima me la faccio, non guardo né il periodo del carnevale, né di Natale, né di Pasqua. Quando una giugana, dobbiamo fare in Germania, così. Come un tempo, quando eravamo piccoli, anni 60, si usava mangiare poco, la cosa asciutta la vendevi la domenica, ma non c'è che io, tutti, come, senza fare i nomi, una persona che mezzo parente, si mangia la pasta asciutta il lunedì, ogni lunedì fa il brodo, ma non ti nanni, io il brodo proprio ci manca, quando voglio io, quando una giugana, io sono fatto roba programmata, io non ne ho, a me mi viene a fare la pasta asciutta di notte, me la faccio di notte, mi viene a fare la pasta al forno di giorno, io me la faccio, o di notte, a me è capitato anche più di una volta, ravioli, chi ci capiteggia, faccio un bel ragù e via. Prima già si usava, un giorno facevi una cosa, un giorno facevi l'altra, c'erano i giorni stabiliti prima. È vero che si usava, lo faceva anche mamma. Vabbè, ma queste cose così le fai soltanto perché di solito la domenica, se avete mia sorella, noi ti facciamo sempre brodo. Ma perché? Perché la domenica facevi la buffata, lunedì, mangiavo la mia sorella di brodo, volevo rimanere leggero, ma solo per quello. Poi, se me ne va in gara, noi ci abbiamo fatto le frigioli alla 8, noi. A me è giusto che le mangiamo frigioli alla 8, ce l'avevamo fatti. Ma chi se ne frega, siamo alla 8. Ci deve essere io lo caldo, chi se ne frega? io, poi noi facciamo la cecciata, non posso mangiare la fame, noi puniamo di tutto come fai tutto lì, noi usiamo una cosa che chiama prodotti, capito? È di lusso. E beh così dai, io quando vado a giocare a Milano con pregio me la faccio, non vado lì a guardare né solo domenica, né festano fresini e giorni feriali, però forse è fatto mi viene la moglie, dico questo, oggi ci sono, domani non mi gioco, io se voglio stare bene in base al mio corpo e alla mia volontà, che mi piace di fare quello lì, me lo faccio, lo mangio e lo metto contro nessuno, e riesco a me ingenuità. Vabbè, ecco che al limite stai bombardando tutta la settimana. Quando faccio i fagioli sì. E anche cici, perché quando mangi la ferita non ti rubo niente. Ma là fai una bella tortiglia, bella grossa. No, ma pure aria. Anche quello è vero. E vabbè, puoi gonfiare una bucoffiera, guarda con l'aria che fai. Fiago, vediamo un po' se c'è Torino, ma Claudio ci sei. Gianni, ma Fiago. Ah, ciao a te. Non avevo capito che dito, mi sembrava Torino che l'aveva. E allora sì, stiamo tirando avanti piano piano. giorno per giorno. C'è da fare bene, di ceci. Ma fa fiago, ma sono trombi. Tu concerti, minuti. Un po' che si intende, e non so come cosa sei mi la giumagnata, già vado. Va bene. Un po' di ceccia ogni tanto ci vuole. Ah, la cecciata. E a me la fene non è che mi caccia assai, Dopo che ne mangio 3 o 4 fette mi rimpio. Ma che cosa di più io ne mangio? Certo, io la fene mi piace con un panino, ma è proprio fatto di corrente via. Allora, cos'è? La panina imbottito ti piace la fene? Certo, lì. E a me piace così. C'è un po' di gente che se la mangia, però il giorno dopo, quella che ti avanza la mettono nel microonde e se la mangiano così, con un panino. E tu Bruno, come la mangi la fene? No, io fai non voglio più, perché non lo so per quale motivo, ma quando ne mangio un poco, non ne mangio il panino. E per il resto, per mangiare la roba, di buon badamento non me la facciamo ogni tanto. Ora, pensandoci bene, e anche io non ho mangiato, ci hanno capito perché mia moglie mi ha mandato a dormire in macchina. Poi sì, cosa hai detto Bruno? La nausea è giunta, ma Bruno non è che sarà incinto, no? No, mangiate la fene e mi ha sconvolto. Sconvolto, non ne mangio più, non ne mangio più. E invece, l'altro giorno ho mangiato roba di bombardamento. E mia moglie mi ha detto, vai a dormire in macchina, stanno per tutte le balle. E siamo solo ricci, lui, tu. E c'ha ragione, infatti mi ha confio. Oh, io devo uccidere una presa aperta, non c'è problema, io mi vedo che te vado a sempre va con gli abiti, la moglie di sempre già stava tutto. E che se la si stava, non vuoi copieggiare tutto. No, ma anche se non c'è, no, anche se non... E questa abita non mascolata sopra a te, non ha detto che mi dà sempre. Però ripeto, anche se so che fa questo scherzo così, una volta ogni tanto, se facciamo una cittata e tutto, se no, che cosa vuoi fare? Allora, Tony, mi hanno detto che la fanno buona anche da tutti i giorni, la Feri, lo sai? No, io non ne prendo, tu, la Feri, se appoggia la signora Feri, qui che sono nato. La Tonello e la sorella che lavorano lì, che sono nato, è uscita nel corso. È veramente bravo Ciumizzino che voi, tra l'altro, la brava attenzione. Ma chi mi cava a dormire con tutti i lieti che vi sono, non vada più nessuno, è in pericolo con la zona. E vabbè, tu la prenoti o telefoni, vai quell'ora te paghi, te la pigli e te la bruci. E la puoi mandarti anche insieme, te lo ricordi a prendere. Eia, sì, vabbè, non so, è zona ormai off limits, capito? Ma a me non mi interessa niente, io altri chi mi usavo quelli familiari. Quando avrò voglia di freddo i muti andrò lì. Poi adesso specialmente questo periodo che c'è freddo qua, questa roba non c'è quanto fa bene, fare una bella favata, una bella cecciata, ora fai, fa tutto bene già. È tutto perfetto, fa bene il nostro corpo. Ma quando c'è la sola, tu lì cosa fai? Dimmi di la cecciata e per prendere poca, perché poi ti ha passato 2 giorni e salvi di mani di cecciata. E beh, oh, anche Vito, io una volta ho invitato a Monica a fare semplici, però se cucini bene, papà, e beh, e purtroppo quando c'è voi la mangio, e me la cucino me la mangio, è inutile che anche se ragiona cosa fai, non cucini c'è roba buona, già, o solo quando c'è gente. E infatti, quando ci sono altre persone, fa anche più piacere mangiare. Io prima mi ricordo quando era la Croce Blu, ma quella vecchia Croce Blu che c'era proprio dove c'era il cinema Rex lì, di via Pietrovica, ci prendevamo queste cose e andavamo da Martino con la pentola, ci prendevamo la favata, la codola, tutte queste cose qua, ce le portavamo giù e le mangiavamo giù mentre facevamo servizio. Sì, c'era infatti la Croce delle Bulli, dove c'è il cinema Rex. E altri tempi, perché dove c'è tutti i giorni prima, tu lo sai cosa c'era lì? Non me lo ricordo. Io mi ricordo solo che c'era il cinema Rex che non c'è più. fu la Croce Blu e non c'è manco quella più, la adesso con la che hanno fatto la Croce Blu è un'altra Croce Blu, non è quella che aveva uno dell'Ampas. E niente. E lì mi sa che c'era saponificio, roba del genere. No, quelle vere produttorze. Lì c'è la fabbrica di mattoni, c'è l'argilla, io da ragazzino, me la pigliavo e facevo tante cose belle, poi ci seccava, capito? Ho fatto qua, adesso ce la compro un commercio sopra, però lì c'era la fabbrica di mattoni, e Bruno già se lo ricorda, Bruno? La fabbrica di mattoni era più giù, ma a me lo senti dire, se stavo in chivi di casa, non lo so, andavo a prenderci la creta, no? Ferma lì, ferma. No, ma stai dicendo tutto lì, dove c'era appunto la farmacia Santa. Esattamente, dove adesso c'è tutti i giorni, dove c'è il supermercato. Però stai dicendo Gianni era un pochettino la via attraverso lì. E l'ho detto io, infatti, ragione mi dice no. Io mi ricordo che era più giù, e vabbè sì, però faceva tutto il giro, praticamente noi andavamo dietro a prenderci i mattoni freschi e facevamo le barchette e tutte queste cose. Adesso stavo a Sacro Cuore io, Torino, non lo so, ero lì, ero. Ma ti ripeto, io lo c'è tutti i giorni, io ci andavo anche a Rex quando ero ragazzino e lì ci andavo fresco, capito? Non ricordo bene, ero lì. E ripeto, io sono dal 61 gioco a Sassari, mi fate un conto. Prima ero fuori i continenti, se non ero io. Però dal 61 fate conto. Hai ragione, c'era la fabbrica dei mattoni, sì sì. Adesso che ci penso bene prendeva anche quel pezzo lì. Perché io entravo da dietro, capito? Entravo da dietro perché prendeva, era molto grande, tutto lo spazio che c'è dove c'è il parcheggio, eccetera, eccetera, era tutta la fabbrica dei mattoni, me lo ricordo. E anche peraltro è minore, no? Che ce la coppa con pezzo lì. Sì, è molto enorme, era il stesso, molto grande. Vabbè. È così. E beh, Dore Squalo. Così, stai solo ascoltando e non commenti. E saponificio era dove c'è il Masedu, c'era dei ragionieri, lì c'era saponificio. Saponificio c'è anche per la Fortosa e prima dove c'è Cavalcavia, che l'hanno aggiustato, l'hanno fatto bellino. Saponificio andava per Fortosa, Cavalcavia, Cavalcavia. E io lo conosco lì, infatti, l'ho detto, adesso l'hanno tutto aggiustato. Ma mi sembra che lo stavano anche vendendo, che se non piglia, beh. Ma l'hanno fatto con questi locali per delle associazioni, il comune non va da più fare. E appunto viene una battesima che va a No, no, saponificio era anche in via Pascoli, me lo ricordo bene io. Saponificio era anche dove c'è il Masedu, lì. Saponificio lì non li ho conosciuti. Dimmi che sei il Masedu, che sei dico io con l'altro là. Dimmi il punto esatto. A fianco via Petromica, tornando verso Sassari. Quel palazzo che fa è molto vecchio e il Masedu. No, ma saponificio lì non è mercato, già. Neanche io non l'ho mai conosciuto lì. A me me lo diceva mamma, figurati. Allora, però io ti posso assicurare che ti posso dire tutti i negozi che ci sono lì, negli anni 70, io sono arrivato nel 50, nel 55 è andato, sono arrivato. Dunque, essendo piccolo, sono stato qua, mi ricordo da anni, via Pasqua, ci posso dire di Pasquaco, io sono stato molto, molto. Che anno sei, Bruno? 54. Ecco, un bebè praticamente uguale, mese. Allora, togliamo le santi, il primo di novembre. Allora c'è più grande detto io, è settembre. Certo che devo dare almeno 3-4 milioni di euro, se invece ho sbagliato. No, che cazzo, tu sì. Due mesi sono, c'è più grande di te, figlia. Ho respirato più aria. Ah, guardate, ci sono più grande, sono più balle. 28 settembre 54, classe di ferro. Torniamo un po', dopo lasciamo accorti, andiamo un fatto. Lo so che ti tiro allora tu, era diverso, già lo sai, non era come adesso. Ma tu mi avevi conosciuto quando entravo come Tonino San Nicola? veramente è arrivato un associazione di Apucale, via Giotta, e per fare da mercato, già mi avete due di quattro anni fa. E non c'ero io, vicepresidente, la massa è tenescenza. Mi ricordo, ma io ancora prima, se tu ti ricordi, abbiamo avuto la sede della via quella via che sale su, che va a finire poi la via Pacella. Si dice la sede, noi avevamo la sede, ma stava vedendo che io avevo 15 anni. Ne? Così ha pensato 5 vicolo chiuso. Via Morea era. No, forse via piccolo stato. Via Morea no, via Morea è un'altra parte, più su. Via Messaggio 5, vicolo chiuso. Radio Club Nord Sardegna, c'ero anch'io. Che era smontata la Gran Plaine, la Super Regio Buscacerali quando hanno chiuso tutto secondo te? Non lo so, io mi ricordo Giorgi Colomaro, mi ricordo Macallè, mi ricordo tutti i vecchi cibi. Altre Bruno, là quel vicolo praticamente attualmente adesso c'è la ferramenta Sasso, giusto? Sì, ed è pronto il Sasso. Radio Club era come entrare a sinistra e quello lì non c'era dentro, quelli dentro. E di fronte c'era il circolo filatelico. Io non mi ricordo, ma io sono più giovane, me ne ricordo. E Salvatore Saturno, il fotografo. E tutti mi ricordo, ok, Torre di Antonella, cosa ti posso dire? Me ne ricordo, noi andavamo a fare, facevamo caccia al tesoro, facevamo tutto. E la pina, e per ora una non l'hai conosciuta Gianni, perché tu ancora ci vi non c'eri, la signora Frascovia. No, questa qui non me la ricordo, però me ne ricordo tanti di vecchi. Io a casa di Macallè sono andato anche, per dire, io li Colombaro me li tiravo le quesselle, quando mi arrivavano me le ritiravo lì. Colombaro, Macallè, figlio pure io l'amico di Giacchino. Allora ci ha nominato Radio Antonella. Antonella si chiama la Viola, che è una nominativa. Antonella è la scuola del mondo di Ciccio, che c'è a Tre Danieda. Sì, Matta Classe. E che mi mandava le cartoline, cioè già le cartoline ho conservato io. E quando partivo mi mandava le cartoline. Cioè, erano bravi, erano la 40 nel Sabirino. Vabbè, io consiglio la fratello Mariorino e la fratello Gianfranco, che Gianfranco purtroppo non c'è più, ha avuto quel problema alla prostata. E Salvatore era il padre, signora Anna la madre, abitavo in Costa di Zappi, primo piano sopra il bar. Come si chiamava? Tu ti ricordi quella di Favisi, quella di Favisi che parlava da Albero, porca di vita, che aveva sparato a Sassa? No, non mi ricordo, di Alghero no, mi ricordo che hanno fottuto, una di Alghero hanno fottuto a Coso, a Isidoro, che erano lì fatto assai, è nata la barca della fidanza, ma come non l'hanno arricciato? Isidoro si chiede una roba, allora ha bruciato 10 mila lire, si sa che ancora più senso. Io andavo lì, lo conoscevo, anche che la sua andavo lì, però a quel tempo. La volta era già un battempio, ma questo mi è venuto senza benzina. Adesso poi mi ha detto, come io ti mando di una tutti i soffaldati. E poi la sorella di Isidoro, per carità, ero io Stefano, principe azzurro, a Dalghero l'abbiamo conosciuta, e la dice, ma tu al cavallo non lo fai, si buccava ogni addentina. Di gruppo, dovevamo ballare da Aldera, allora c'era la Soccocco, c'era quella gente da Aldo, Soccorro, Fratello, c'era un sacco di gente, di gente che andava di gruppo. E Luisito, che è la Sicilia, che è come tra cose di fronte, dove sono fatto la CRAI, perché prima c'era il coso, depois della polizia, c'era meccanica, il polizia, eccetera, volte, via Tempio. Sì, ce n'era. E beh già, e allora quindi? Sì, Luigi c'è il padre di Franco Sasso, di una vicovina. Sasso chi è, se ti porta? La figlia chi era, se commetta? Non era la moglie di uno dei nostri amici CD. Figlia di Franco, una è sposata con Ignazio Kirchi. Una era sposata con un altro amico che non faccio nome perché è stato sempre quello. Ebbe l'orizzonte, pardon, ebbe il giallo, te lo ricordi, si preoccupa. Chi? Non vedevo chi? Vento giallo, la mamma entrava come Elettra. Se facevamo ruota di 15-20 persone in ogni canale, gatto, eravamo già qualcosa di importante che non ti va via tra più nessuno. Migliaia di persone sono passate da Battaglia. Guarda Bruca, il vento giallo era Stefano Serra, il fotografo che c'è in piazza con la Mariano, che era in piazza Maggiore si chiama comunque. Elettra era la mamma. E poi dietro c'era Beniamino, che c'era Alfa Romeo, non te la metti più. Sì, adesso non riuscivo a ricordare il nome nativo, sì, come si chiama? Stefano, è un amico, faceva fotografo lì. Dietro c'era Romeo, era figlio di un radioattore che era di Vieste, proprio di Vieste, Vieste 0 CDO, non ricordo ancora la sigla. È morto più di 30 anni. Poi c'era il figlio Romeo, che era amico di, l'avevo conosciuto io Romeo tramite Antonello Vacca, che gli avevo venduto il toccare 5008. Sì, ma li ho frequentati proprio in quella zona, sì, andavo proprio a casa sua, era amico di radioattore il padre di Romeo. E io sono andato a casa sua anche di Romeo, poi ho trovato Corsino, l'ho trovato a Milano, l'ho trovato, e sono andato a Marcuccia, abbiamo fatto il giro io a Puglia con Romeo, non so che fine abbia fatto, secondo me c'è pensione. Sì, aveva proprio il Mastro Nautica proprio il padre, che era un OM, mi ricordo benissimo. E poi conosciamo il fatidico Rosa Verde. Rosa Verde, Nino Sao si chiamava, Rosa Forte, forse cosa l'avevamo combinato, che era Girotondo, come si chiamava, Mura, Girotondo, di sottrati, si andava a capo, mi metteva le spille, il capo, no, capo, come mi dava una grossa, no, e il capo, l'antenna si andava, passava fuori, e quella una volta mi metteva gli spille per fare passare l'antenna, seminare. E poi c'era Altalena, Rosetta, Renata forse c'è ancora, non l'ho più sentita, che marito di Renata entrava come uranio. C'era gente, era diverso, Bru, era più bello, dai, adesso tutti quanti spariti, chi se n'è andato, che non c'è più e chi c'è ancora forse ascolterà.